Europa 24. Questa mattina le parole del portavoce del presidente dell'Eurogruppo Dijsselbloem su MPS. Con il piano privato non si sono raccolti abbastanza fondi, il che significa che ora possono guardare ad altre opzioni, incluso l'intervento statale. Ma le regole impongono prima la necessità di un bail-in degli azionisti e degli obbligazionisti junior. Così il portavoce di Dijsselbloem. Il presidente russo Vladimir Putin si è detto totalmente favorevole al trattato UE-Ucraina sull'abolizione del regime dei visti, definendolo un passo nella giusta direzione poiché i visti in Europa sono un retaggio della guerra fredda. Dato che l'Unione Europea ha deciso dopo la riunione dei ministri del commercio nel mese di settembre di non completare il TTIP, ora è il momento di agire. Così l'amministrazione Obama ha annunciato con un comunicato sul sito del Dipartimento per il Commercio USA di voler riaprire la disputa con l'Unione Europea sulla carne di manzo agli ormoni. Maggiori tutele per i lavoratori di aziende straniere distaccati in Italia, lo fa sapere il Ministero del Lavoro, sottolineando che dal 26 dicembre, quindi da lunedì, in caso di distacco transnazionale, diventa obbligatorio l'invio della comunicazione preventiva di distacco dei lavoratori in Italia da parte delle aziende straniere. Obiettivo fondamentale della normativa, spiega il Ministero, è contrastare il fenomeno del distacco abusivo garantendo il rispetto di un appropriato livello di protezione dei diritti dei lavoratori distaccati per quanto riguarda l'impiego, la remunerazione e tutte le condizioni di lavoro. Sono previste sanzioni. Ed ora veniamo all'accordo UE-Svizzera sul mercato del lavoro. Un colpo al cerchio e uno alla botte. La Svizzera cerca un punto di equilibrio tra protezione del mercato del lavoro e apertura di un paese che non è nei 28 ma partecipa a gran parte delle politiche dell'UE e dipende, non va dimenticato, proprio dallo scambio con l'Unione. Bene dunque la legge sui lavoratori stranieri varata dalla Svizzera, dice la Commissione, in quanto garantisce la libera circolazione e non introduce le quote, ma attenzione alla sua attuazione pratica, in particolare alla non discriminazione dei frontalieri. E questo il messaggio dell'UE a Berna dopo aver analizzato la legislazione del 16 dicembre, che attua in modo soft il risultato del referendum svizzero del 2014, in cui si chiedeva addirittura di contingentare i lavoratori stranieri per dare la precedenza a quelli elvetici. L'UE aveva avvertito che senza la libera circolazione sarebbe scattata la clausola ghigliottina, che avrebbe fatto saltare tutti gli accordi di cooperazione, dall'Erasmus a quelli su ricerca e PMI, che infatti sono stati sospesi. Le autorità svizzere e le istituzioni europee non hanno risparmiato sforzi, commenta la Commissione. Sarà però essenziale che l'ordinanza di esecuzione fornisca precisazioni e garanzie su alcuni elementi fondamentali, come l'accesso alle informazioni sui posti vacanti e il pieno rispetto dei diritti dei lavoratori transfrontalieri. Gigi Donelli, Radio 24, Sole 24 Ore. È tutto per Europa 24. Un saluto da Maria Piera Ceci. Europa 24. In collaborazione con Euronet Plus.